Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, la notizia del giorno è arrivata da poco ed è che il Novara ha esonerato Mondonico e ha richiamato Tessera. Al di là dei numeri che vi fornisco subito, nel senso che il bilancio di Mondonico è di 6 partite con una vittoria, 2 pareggi, 3 sconfitte, 3 gol fatti e 6 subiti, 0,83 la sua media punti mentre 0,6 era quella di Tessera, al di là anche della certezza che Novara non avrebbe salvato Mondonico e non lo salverà Tessera, resta la sgradevolezza di un balletto da cui, a mio modo di vedere, esce bene soltanto Mondonico, male Tessera e malissimo il Novara, il quale Novara, per spiegare la decisione ingiusta a mio parere, ma molto ingiusta, di esonerare Tessera, artefice di 2 promozioni consecutive, aveva spiegato che qualsiasi cosa andava tentata pur di non rassegnarsi alla retrocessione. Era il 30 gennaio, oggi è il 6 marzo e la domanda è: ma tra tutte quelle cose da tentare pur di non rassegnarsi c'era anche il coprirsi di ridicolo? Bentornato caro ministro Fabio Tavelli. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Controfirmo per quanto possa costare tutta la tua analisi, un senso davvero di amarezza. Ho il sospetto e temo francamente che il Novara, che mi era sembrata una società molto seria, anche insomma, avendo chiacchierato in onda con alcuni dei suoi dirigenti, sinceramente è evidente il contagio a questo punto. Il contagio. Quando la compagnia è quella, è chiaro che anche i sani diventano insani. Mm. E questo è molto amaro. Ci aggiungerei un'amarezza in più, perché comunque secondo me quando si dà una chance del genere ad un uomo che esce da quello da cui era uscito Mondonico, secondo me ci si prende anche una responsabilità umana, non soltanto tecnica. Sì, sì. No, confermo, oltretutto voglio dire, se anche la buttassimo solo sul calcistico, Mondonico non ha mica fatto male. Assolutamente. Che deve fare? Cosa poteva fare? Non è che gli hanno comprato Messi e Cristiano Ronaldo, no. E lui ha vinto una partita sola, per carità. Ma ci si assume anche una responsabilità umana, io temo, vero, che non è per caricare ulteriormente di altri fattori, però un uomo che esce da quello da cui è uscito Mondonico non ha bisogno di delusioni e tanto meno di delusioni traumatiche, proprio per un fatto di equilibrio di salute. Sì, mi dicono Gigi che Mondonico fosse nella sua cascina questa mattina, che con tutta probabilità abbia saputo dalla TV, credo da noi, questa mattina della notizia, ma al di là di questo, che io credo, guarda, non vorrei esagerare, ma credo che ci avrebbe pensato 3 volte Zamparini a fare una roba di questo genere. Ho questo sospetto. Quindi la trovo oscena, facciamo così, mettiamola sullo sceno. Okay. Senti, cominciamo dalle coppe, quindi da stasera per queste 48 ore o da Villas Boas? Sai che a me mi intriga. Cominciamo da Villas Boas. Che tipo è sto portoghese appena licenziato dal Chelsea e in lista d'attesa, a quanto pare, per l'Italia? È quantomeno curioso che un allenatore che ha fallito anche pesantemente in una piazza importante e alla prima grossa verifica abbia immediatamente una corte dietro. E evidentemente la sua fama l'ha preceduto, perché la stagione di Villas Boas è stata francamente imbarazzante, ma imbarazzante anche per la sua incapacità non di adattamento, che è una parola grossa, ma la sua capacità di rendersi conto della situazione, dei giocatori che aveva a disposizione e del tipo di avventura che lui stava vivendo. Per fare un piccolissimo passo indietro, Villas Boas è un ragazzo benestante, un ragazzo con quarti di nobiltà, in linea non direttissima ma quasi, e quindi insomma, è uno che la vita l'ha presa in un certo modo sin dall'inizio. Divenne famoso perché mandò dei pizzini a Robson quando Robson allenava il Porto, e Robson, che ne apprezzò anche la capacità linguistica e la capacità di parlare bene l'inglese, diede anche ascolto a Villas Boas, diventando quasi una sorta di suo nome tutelare. La carriera è stata fulminea, lui addirittura ha allenato la nazionale delle Isole Vergini, tu pensa, e fu esonerato dopo aver perso 9-0 contro le Isole Bermuda, quindi immagino la sfida epocale tra le Vergini e le Bermuda. Io penso, scusami, intanto mi viene in mente la cascina di Mondonico rivolta ad Adda, non so se sarà un... Sì, bravo. Bravo. No, ma continua, scusa, non volevo interrompere. No, contrappasso mi sembra notevole. E, detto questo, poi la sua carriera è eccellente ed è fulminea, perché lui ha poco più di 30 anni e ha fatto benissimo in Portogallo, al punto di essendo diventato anche assistente di José Mourinho, e quindi poi la linea di continuità lì con Robson è stata evidente, perché poi Robson è stato a Barcellona e Mourinho è stato suo assistente. Villas-Boas ha fatto l'assistente di Mourinho anche a Milano una stagione, qui ha imparato molto bene l'italiano, è una persona che si presenta molto bene, conosce le lingue, conosce da un punto di vista comportamentale, tutto perfetto. Peccato che al Chelsea abbia cominciato a litigare con tutti, abbia fatto fuori dei giocatori importanti, abbia costantemente insistito con un tipo di gioco che vedeva la squadra soprattutto nella sua fase difensiva, e parlo di fase, completamente alla mercé degli avversari, una squadra che prendeva un sacco di gol, una squadra vecchia in difesa, una squadra dove l'unico a salutarlo in maniera ufficiale è stato David Luiz, e abbiamo anche capito perché poi David Luiz giocava sempre, e non ha mai cambiato nulla, e alla fine disperato Abramovic ha cambiato lui, perché questo era francamente nei fatti. A me stupisce un po' questo, cioè che ci si innamori in maniera così perduta, si facciano contratti del genere. Ti tieni conto, Gigi, che per prendere Villas-Boas dal Porto Abramovic ha dovuto spendere 15 milioni di euro da dare al Porto, cioè l'ha pagato come un calciatore per la clausola rescissoria, e poi tutto sommato a marzo te ne disfi. Come ci si è arrivati lo sanno soltanto loro, però è opportuno che questo calcio debba riflettere su queste cose, o si fanno contratti diversi, o altrimenti non è veramente possibile che le società si svenino e poi in preda alla disperazione, al momento, così buttino tutto a mare, perché poi Villas-Boas prenderà anche un sacco di soldi nel momento in cui lui adesso è un illustrissimo disoccupato. Poi transeranno quando Villas-Boas farà un altro contratto, ma stiamo parlando davvero di tanti tanti tanti soldi che il Chelsea ha buttato via. Dove lo farà quest'altro contratto a parer tuo Villas-Boas? Molti dicono all'Inter per due ordini di motivi, e cioè il fatto che Villas-Boas comunque giochi a 4 dietro e che conosca l'ambiente, per averci già comunque svernato un anno con José Mourinho, perché comunque è un allenatore che merita una seconda chance, perché comunque è un allenatore che la società già conosce, cioè ci sono molti tasselli che portano a pensare. Io invece ho il sospetto che possa accadere qualcosa di diverso, o meglio, non accadrà, però non mi stupirebbe che Villas-Boas potesse diventare un allenatore del campionato italiano, ma che potesse interessare molto al Napoli. Ho in testa questa cosa, che Villas-Boas potrebbe diventare il successore di Mazzarri, e Mazzarri andare a allenare l'Inter. Il fatto che l'Inter possa non buttarsi completamente su Mazzarri ha due motivi. Il primo è che Mazzarri gioca a 3 in difesa ormai da anni, e l'Inter invece è... Vabbè, ma lì fa la consulenza con Gasperini, preventiva, non ci sono problemi. Ha giocato con mano che la difesa a 3 con questi non va benissimo. E la seconda è che Mazzarri è un allenatore bravissimo, ma che tende a far giocare soprattutto i giocatori esperti, cioè che non dà grandissima chance ai giovani, mentre invece l'Inter ha bisogno di svecchiare la rosa e far giocare i giovani. Però è uno scenario assolutamente che cambierà domani mattina. È uno scenario interessante, e poi siamo poi sempre qua per verificarla, fermo restando che non è che ci hai detto andrà così, hai detto... No, ma poi ti pare che io mi metta a dare una notizia di calciomercato? No, difatti, un ragionamento e una cosa che va un po' per induzione, però riprendiamoci da questo, no? Da questo mini shock, con un intervallo per sentire Strade e Autostrade. Torniamo in compagnia di Fabio Tavelli e arriviamo al programma di Coppa di queste due serate, aperto da Arsenal-Milan. Credo sia un copione scontato, no? Non che l'Arsenal debba salvare l'incasso, perché l'incasso era già garantito prima, ma insomma in maniera anche giustamente compiacente Allegri gli ha dato spoglio, dice, ma in fondo si parte sempre da 0-0, quindi le partite possono, però io credo che l'Arsenal abbia come obiettivo quello di fare una bella figura e possibilmente di batterlo il Milan. L'Arsenal ha l'obiettivo di vincere, perché comunque anche ogni vittoria ha degli incassi per la società, e c'è anche un minimo di prestigio nell'uscire comunque da vincitori, no? Cioè tu vieni eliminato, però perdi in casa, e minimo che puoi aspettarti almeno un grosso applauso. Cioè, se il Milan non gliela regala, la partita non ha minimamente storia, dico a livello di qualificazione. Poi ci può anche stare che il Milan la partita la perda, perché il Milan è più concentrato su altre cose. Altro. oltretutto non è che l'Arsenal in questo momento sia una squadra che scoppi di salute, ha qualche problema fisico, ha un Van Persie in grande forma, per carità, ha vinto a Liverpool in maniera eccessiva rispetto a quello che poi ha mostrato in campo, quindi io mi aspetto il solito Arsenal che farà girare molto velocemente la palla. È chiaro ed è molto evidente che se il Milan non prende gol nella prima mezz'ora, poi il resto della partita diventa abbastanza accademico. Ripeto, il Milan può anche perdere. Non credo, sinceramente, la caratura europea mi porta a pensare che il Milan sia una squadra che anche queste partite le voglia giocare, non per regalare, no, e non regalerà nulla. Poi se ci scappa anche una sconfitta non sarà grave. No, soprattutto perché non può permettersi di sciupare tesori di energia avendo i giocatori contati, no, in questo momento, sia per la Coppa che per il campionato. Quindi credo che alla lunga, se l'Arsenal davvero gli tirasse il collo, prevarrà il realismo. Senti, Zenit, cioè Benfica-Zenit, come 3-2 all'andata per i russi. Come se la può cavare Spalletti? Se la può cavare bene, ma stando molto attento. Il Benfica non è in un buon momento, ha perso 3-2 contro il Porto in casa e aveva vinto 10 partite consecutive in casa e poi ne ha perse 3 delle ultime 4. Io credo che non sarà facilissimo, però, oltre per il fatto che basta un 1-0 e con Oscar Cardoso in campo il gol può sempre arrivare. Io non, per carità, vincere la gara d'andata è sempre importante, ma 3-2 è un risultato molto molto pericoloso. Sono due squadre che segnano, sono due squadre che non hanno difficoltà a vedere la porta e questo paradossalmente favorisce lo Zenit in caso di punteggio alto, però da un punto di vista climatico credo che lo Zenit si trovi benissimo perché loro sono lì da tanti e tanti giorni, almeno 10 giorni fa ho sentito al telefono Criscito e lui era già lì, sì. Perché aveva comunque bisogno di recuperare, lui poi ha avuto un problema intestinale e va bene, comunque lo Zenit si è davvero preparato a puntino. Secondo me è 51-49 Benfica, perché in ogni caso lo stadio fa la sua parte, il terreno di gioco è veramente perfetto per dei palleggiatori come i portoghesi, quindi non sarà facilissimo. Certo è che lo Zenit è di fronte a un'impresa storica, cioè di approdare ai quarti di finale, e quindi credo che anche lì Spalletti l'avrà preparata alla straperfezione. Sì, non è un match clou da Coppa Campioni, però certamente è il più interessante non c'è dubbio. Della serata, così come quello di domani non è tanto, mi pare almeno Barcellona-Bayern, visto che hanno vinto 3-1 già all'andata e adesso giocano in casa, ma è Apoel Nicosia a Lione domani sera il clou. Sì, per chi vuole vivere di emozioni sì, per chi vuole vedere anche qualche giocata, onestamente magari Lione Apoel all'andata non fu memorabile dal punto di vista tattico e tecnico, però è interessante e onestamente così mi viene da fare un minimo di tifo per la Poel, anche se poi all'andata il Lione avrebbe potuto e dovuto vincere molto più largamente, perché è stato veramente un tiro a segno e non è finita 5-0 solo per quelle cose strane che accadono nel calcio, però davvero si riparte quasi da capo, perché 1-0 è un punteggio non rassicurante e la Poel ha teoricamente la possibilità di vincere 1-0 e di portarle supplementare e di giocarseli in casa, e quindi non è così sfavorito. Per il resto credo che il Barcellona farà il solito show, che non le basta per vincere la Liga, ma che in Champions la fa stare molto molto tranquilla. Caro Ministro, probabilmente scossi o sollecitati dal caso Novara, sono in tanti a premere sull'8-0-0-24, 0-0-24. Allora io penserei di congelarla e di darle ovviamente appuntamento a giovedì per un bilancio di questa doppia serata. Sarà un grande onore e un piacere, Gigi. Grazie, saluti a tutti. Grazie a Fabio Tavelli. Chiuso il collegamento con Sky Sport 24, apriamo il sito del Novara Calcio, che comunica... La società Novara Calcio comunica per l'appunto di aver interrotto il rapporto professionale con il direttore sportivo Mauro Pederzoli. La decisione è maturata a seguito di un colloquio sereno tra le parti, da cui è emerso il venir meno delle condizioni per proseguire il percorso insieme. Questo mi fa pensare, così a occhio e croce, che il direttore sportivo Pederzoli non fosse granché, non condividesse granché questa operazione che è stata appena effettuata, cioè il licenziamento di Mondonico e il ritorno di Tesser, e quindi questo, se così fosse, e mi auguro che lo sia, torna certamente ad onore di questo direttore sportivo che si chiama Pederzoli. Gli arbitri delle partite di domani ci sono 3 recuperi, uno più importante dell'altro per diverse ragioni di classifica. Gli arbitri designati sono Rocchi per Cesena Catania, Banti di Livorno per Bologna Juventus e Rizzoli per Parma-Fiorentina. A questo punto, mentre smaltiamo il traffico per i vostri interventi, ho due mail, una deliziosa e una spaventosa, ma insomma che tutte e due vanno lette, ringrazio entrambi gli ascoltatori che me le hanno mandate. Uno si chiama Paolo Mezzanotte e scrive: pur essendo interista, anzi forse proprio perché lo sono, le chiedo di fare un appello ai genitori di Filippo, il bambino agli onori della cronaca per il gesto dello striscione allo stadio verso i giocatori, affinché sia lasciato libero di essere solo un bambino, con le sue sane e genuine passioni, e non un pupazzo esposto davanti alle TV in continuazione, come è stato in queste settimane. Paolo, leggo, firmo e controfirmo. Luca Migliori invece mi gira un articolo, una notizia di cronaca della Gazzetta di Modena, che è la seguente: nel tifo calcistico non si osservano limiti, nemmeno quelli imposti dal buon senso, io direi dal buon gusto, ma insomma non ha importanza, e dal rispetto per la scomparsa di un artista come Lucio Dalla. Morto alla vigilia dell'incontro tra Modena e Cittadella il sabato scorso, il club canarino, e cioè il Modena, per rendergli omaggio, ha diffuso appena prima del match la canzone Caruso. Ma se nella musica bolognesi e modenesi possono unirsi e stregare il mondo, nel calcio non funziona così. Mentre da parte della stragrande maggioranza dei tifosi del Modena è partito a quel punto un applauso commosso all'indirizzo di Lucio Dalla, qualcuno dalla curva, non pochissimi, non ha perdonato al grande artista bolognese di essere un appassionato tifoso della squadra della sua città e ha fatto partire un coro che diceva simpaticamente: bolognese pezzo di merda. Questo è il calcio, anche questo è il calcio. Poi si dice che le minoranze non dovrebbero avere rilevanza. Beh, insomma, le minoranze sono queste. Certo che non era tutta la curva laziale domenica che riempiva di bu Juan, ma intanto c'erano migliaia e migliaia di persone che probabilmente non stavano facendo bu, che comunque condividevano quella curva con questa gente. Ora, dopo tanti anni, io credo che anche certe vicinanze sappiano molto di contaminazione, e credo che lo stesso discorso valga per Modena. Ci mancherebbe che una città come Modena potesse, cioè che una cosa così oscena possa rappresentare una città come Modena. Questo evidentemente no, ma perché non si riesce a fare in maniera che gli stadi italiani vengano epurati, questo sì in senso razzista, epurati da questa povera gentaglia. Poi c'è un bel articolo di Marco Ansaldo sulla Stampa di stamane che vi vorrei leggere, ma dato che il tempo comincia un po' a stringere e ci siete per l'appunto voi con i vostri interventi, cominciamo da Marco da Novara. Buongiorno. Sì, dottore, buongiorno a lei. Buongiorno. No, le spiego semplicemente perché sono deluso. Io ho quasi 50 anni, io mi ricordo il Novara in C2, poi perse anche lo spareggio, poi venne ripescato, quando allo stadio c'erano forse 500 persone, il vecchio stadio ancora addirittura di Via Carotti, che equivale al Filadelfia di Torino, per chi è di Novara capisce. Cioè io ero così contento di vedere il Novara fare quello che ha fatto dalla C alla A, con una società che presupponevo seria, no? Poi la delusione sta in questo, non nel fatto che abbiano cacciato Tesser, che aveva i tifosi dalla sua parte, tifosi nel senso degli ultras dalla sua parte, che erano contro Pedersoli, ma proprio per il fatto che non ci si è resi conto che il miracolo era già esserci, no? Certo. Poi puoi ritornare in B come hanno fatto tante squadre, puoi rifare il progetto, ma quando tu giochi in A con onore, speravo, e con i giocatori che ti hanno portato giustamente dalla Cive, che poi qualcuno se l'è dimenticato, voglio dire, questa è la delusione, ecco, tutto qua. E quella di oggi è doppia, perché all'errore del grave, a parer mio, del 30 gennaio se ne somma uno ancora più grave oggi, che è soltanto il 6 marzo. Vuol dire che i cattivi esempi, purtroppo, come si ricordava all'inizio, fanno proseliti, e che la società Calcio Novara, mi pare, nel giro di 40 giorni sia andata decisamente in tilt. Potremmo sentire una voce in breve per arrivare all'intervallo della borsa, e potrebbe essere quella di Allegri alla vigilia di Arsenal-Milan. Giochiamo per questo, sappiamo che in questo momento, come ho detto diverse volte, il Real Madrid e il Barcellona possono essere un gradino sopra, però siccome nel calcio quando partiamo siamo sempre 0-0 e poi nelle più vai avanti e più la squadra acquisisce, aumenta l'autostima e aumenta la convinzione, arrivare nelle prime 8 d'Europa in questo momento sarebbe già un passo avanti rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno scorso. E poi, visto la squadra che sta crescendo ed è cresciuta, e visto che stanno recuperando tutti i giocatori, non è giusto pensare che non possiamo arrivare in fondo. Operazione pubblicitaria è quella del Novara, domanda Luca. Luca, però lei ce la spieghi meglio. Pubblicità in che senso? Pubblicità al contrario, cioè non pubblicità progresso, pubblicità regresso, allora, in questo caso. Vi dicevo di una lettura, Marco Alsaldo sulla Stampa di stamane. Tolleranza zero, anzi, 20.000 euro. Quanti sono gli euro inflitti alla Lazio per i burazzisti che hanno accompagnato il derby di Quang? Pare che non si possa andare oltre. Eppure sono passati pochi mesi da quando l'ex ministro Maroni e il presidente Abete invocavano misure drastiche contro i razzisti, seguendo la formula dell'ex sindaco di New York Giuliani contro le bande della città. Giuliani passò ai fatti, da noi ci si è fermati a parole e multe. Del resto ci hanno insegnato che pagando un po' di più in Italia si cancella tutto, persino la perdita dei punti sulla patente se attraversi l'incrocio col rosso. L'episodio dell'Olimpico Romano rientra nell'ipotesi che configura la sospensione della partita e come estrema conseguenza l'assegnazione della sconfitta a tavolino per la squadra i cui tifosi hanno mantenuto il comportamento razzista. I bue erano nitidi. Ogni volta che Guan toccava il pallone c'era tutta una curva dietro a quei cori. Non si poteva far finta di niente. Infatti il brasiliano della Roma li ha sentiti e ha portato l'indice al naso per dire di star zitti. In campo se ne sono accorti i giocatori, l'arbitro Bergonzi, sicuramente il responsabile dell'ordine pubblico. I calciatori almeno hanno avuto gesti di solidarietà, gli altri hanno soltanto minacciato la sospensione della partita, ma non se la sono sentita di attuarla. La tolleranza per gli intolleranti, altro che lo zero annunciato per arginare un fenomeno che prospera proprio come niente fosse. A tutto questo si aggiunge poi che la domenica nera in tutti i sensi di Quang si è ulteriormente manifestata con questo infortunio grave che probabilmente lo ha fatto giocare domenica scorsa l'ultima partita della Roma, nel senso che a fine anno non gli verrà rinnovato il contratto ed è difficile che riesca a recuperare in tempo prima del finale di stagione. Matteo ha chiamato dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Buongiorno. Io la chiamavo per il caso Mondonico, diciamo. Ci sono già tante cose che fanno disinnamorare del pallone, tutte le varie polemiche, tutte le cose sterili. Questa è una forse delle più brutte, perché al di là dell'esonero, che uno può giudicare che ci può stare o no, veramente è una pagina per me bruttissima. Mi sono cadute le braccia quando prima ho sentito da lei che era stato esonerato, perché non ne vedo né il motivo. E se prima il Novara era la squadra, diciamo, simpatia, con Mondonico ancora di più, che tra le altre cose aveva raccolto anche qualche risultato buono, sì. Adesso non, per me non è più così. La ringrazio. Difatti è un'incredibile operazione di immagine al contrario quella del Novara, perché mentre quella di licenziare Tesser era nettamente negativa, ma prendendo Mondonico con tutto quello che c'era di umano, ripeto, nella storia recente di Mondonico, tutto questo gli dava, insomma, dava un aspetto diverso, un aspetto migliore a quello che era comunque un errore strategico, a parer mio, una mancanza di rispetto nei confronti di Tesser. Adesso questa operazione è indifendibile del tutto e non tiene conto del fatto che, assumendo proprio Mondonico e non un altro allenatore qualunque, Novara si era assunto una responsabilità comunque, che oggi invece ha lasciato miseramente cadere, tolto il direttore sportivo, che se è arrivato si è arrivati al licenziamento, rescissione o quello che è di contratto, vuol dire che probabilmente aveva provato a far presente, ragionevolmente immagino, aveva provato a far presente in società questo non piccolissimo problema. Matteo ha chiamato la provincia di Modena, sì, e quindi ci avevo già parlato, è sparito un altro ascoltatore da Roma, che tra poco, il problema di display, velocissimo. Gian Piero ha chiamato da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io poco fa l'ho sentito affermare che secondo lei migliaia di tifosi della Lazio erano d'accordo con i burazzisti. È corretto? No, io ho detto che non posso immaginare che tutte le persone che stavano in curva alla Lazio domenica, cioè nella curva della Lazio, condividessero i burazzisti di una di quella che è certamente una minoranza. Ma il solo fatto che dopo tanti anni ancora frequentino la curva della Lazio mi fa pensare comunque che un minimo di affinità elettive ci possano anche essere. Ma io sono completamente in disaccordo con lei, innanzitutto sono tifoso della Lazio, non sono mai stato razzista e ho sempre stigmatizzato insieme a tanta altra gente questo tipo di comportamenti che sono frequenti in tutte le altre curve, perché io non ho sentito una parola sui bu riservati a Diakité quando è entrato da parte della curva della Roma, ad esempio. Questo probabilmente no. Sono dei bu molto più flebili. Evidentemente sì, Giampiero, perché se l'unico allarme domenica di anche lanciato l'altoparlante è stato per la curva della Lazio, immagino, io non c'ero, lei sì. Io sto a quello che sento, leggo e cerco di capire. Sto riportando la mia testimonianza, certo. Le consiglio di leggere le dichiarazioni di ieri di De Martino, l'ha detto stampa della Lazio. Beh, questo, diciamo che io le dichiarazioni degli addetti stampa cerco di risparmiarmele da parte di tutti gli addetti stampa d'Italia. In questo caso forse è il caso che le legga. Facciamo una bella eccezione per la Lazio, va bene. Va bene? Perfetto. La ringrazio e comunque lei sa che c'è una rappresentativa di tifosi della Lazio che da anni partecipa ai mondiali antirazzisti e altre... Ai mondiali? Antirazzisti. No, non lo sapevo. Voi non potete fare voi, nel senso, sì. Potete fare di tutto un erba un fascio, anche se... Un fascio ha detto? Sì. È venuta così, insomma. Lapsus freudiano. Certo. Giampiero, se ci sono iniziative come quella che lei sta illustrando, ne prendiamo atto con piacere. Diciamo che quella di cui ha parlato lei in genere ha un po' meno rilevanza dei bu che invece piovono dalle curve dalla curva laziale dell'Olimpico, e non solo da quella laziale, perché non è che quella romanista è fatta da persone migliori, se è per quello parliamo sempre dei gruppi di estremisti e di quelli che comandano. Però nel caso di domenica, ripeto, mi pare che arbitro commissario di campo, così si chiamava un tempo, abbiano individuato nella Lazio la responsabile più che la Roma, in ogni caso, tant'è vero che la Roma non è stata multata e 20.000 euro di multa sono toccati alla Lazio. Se poi anche questa è una congiura, io sinceramente rivolgetevi alla Federcalcio allora in questo caso. Francesco Napoli, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Il mio intervento in merito alla Lazio riguarda un po' la Serie A. Ma possibile che non ci sia un capitano coraggioso in tutta la Serie A che abbia il coraggio appunto di prendere la palla in mano e di avvicinare i tifosi che inveiscono contro una pesata squadra? Se non la smettete, finiamo di giocare. Ma chi? Mauri quello? Ma Mauri come poteva essere qualcun altro al posto suo? E sì, il giornalista poi dopo che glielo chiede, perché non avete mai il coraggio di fermare voi che siete ascoltati, i vostri tifosi? Tutto qua. Francesco, non le so rispondere, non è mai stato fatto, non è mai accaduto. Credo che sia accaduto una volta all'estero nella storia, ma non tanti anni fa, ma non ricordo sinceramente in questo momento più da parte di chi. Da noi non è mai successo e temo non accadrà mai. I signori delle curve sono sacri, anche per i calciatori. Se poi si tratta di in qualche caso di calciatori chiacchierati, bisogna andarci ancora più piano con le curve, no? E quindi bisogna misurarli i gesti che si fanno. Romano da Napoli, buongiorno. Buongiorno, complimenti. Senta, io volevo parlare un poco del fatto di questi errori che si stanno verificando negli ultimi tempi, anche se ormai si verificano sempre. E io ho sempre pensato che in una partita può capitare, però diciamo che in Italia c'è il teorema che se un errore è fatto a favore della Juve, la Juve ha rubato, viceversa è un segno del divino, un segno del destino, la mano di Dio, la mano così. E nello specifico volevo un suo commento alla mancata espulsione di Dramé, che fa chiaramente fallo da tergo e non viene ammonito e quindi espulso, chiaramente una cosa contro il regolamento. Quindi come possiamo, diciamo così, spiegare questa situazione, no? Volevo un suo commento. Il mio commento è che ha sbagliato l'arbitro. Che commento vuole che faccia, Romano? Io se vuole posso commentare, se vuole posso commentare la sua straordinaria partecipazione a questo programma. Lei ha la voce, lei in questo momento si chiama Romano e telefona a Napoli. Secondo me lei ha la voce di uno che una decina di giorni fa si chiamava in una maniera diversa, così, e se ho buona memoria. Sbaglio? No, non sbaglio, vero? Ecco, questo vuol dire che diciamo che la soglia d'attenzione ogni tanto cala non soltanto allo stadio ma anche al nostro centralino. Mi scusi, ma ho riconosciuto qualcosina di, stavo per dire neandertaliano, ma insomma ho riconosciuto qualcosina di tipico e di caratteristico da parte sua. E dato che l'ultima volta il suo intervento era stato molto sgradevole, quello di oggi invece, le ripeto, la risposta è semplicissima. Ha sbagliato l'arbitro domenica sera, come ha sbagliato guardaline un'ora prima a non vedere l'autogol, i fuorigioco di De Ceglie. Questi sono gli errori che vanno e vengono. Poi ci sono piazze e società in cui gli errori in certi momenti magari vengono soltanto e non vanno, e sto pensando al Parma per esempio, no? Che sta pagando in tempi recenti un dazio notevole agli errori arbitrali, ma ad errori gravi, anzi gravissimi, come quelli commessi da Valeri domenica in Parma-Napoli. E capisco che sia difficile in quei casi farsene una ragione da parte di giocatori, dirigenti e allenatori, perché cioè, io credo che se fosse toccato a qualche Don Lamentini noto, no, tra i nostri allenatori in Serie A, se fosse toccato quello che è toccato a Donadoni nelle ultime due giornate, a quest'ora avrebbero già chiesto l'intervento dei caschi blu dell'ONU, credo, così a spanne, per rispettare le proporzioni che questi signori per l'appunto sempre ben rispettano. Modena, insulti ad Alla, la notizia non è uscita a Modena, dove tutti hanno fatto finta di niente, società e giornali, ma dalla redazione bolognese del Corriere della Sera, vedi sito. Aspetto per la civile città di Modena, non secondario, ma sa, probabilmente io in questi casi non so se pensare alla censura o no, semmai mi viene in mente che uno si vergogna, no? Di pubblicare una notizia del genere a carico di propri concittadini, però se le notizie ci sono, io sono sempre per l'idea di non, quasi sempre, dell'idea di dar libero corso alla notizia stessa. Molto bello questo SMS selezionato con cura. L'unica cosa positiva che posso pensare di questo esonero di Mondonico è che egli ne esca psicologicamente rafforzato dal fatto che non lo hanno fatto sentire un malato, ma lo hanno trattato secondo il normale modus operandi di questo presidente, di questi presidenti. Un caro saluto Alessandro, questa è una riflessione bella profonda che sinceramente non avevo fatto, c'è dentro tutto la giusta dose di sarcasmo per questo povero mondo, però è anche vero che il vecchio mondo, per l'appunto, conoscendolo ben da vicino, forse, a differenza di quello che mi era venuto distinto all'inizio, ne trarrà la convinzione di dire, beh, se mi trattano a sta porca maniera, evidentemente pensano che sia proprio guarito, hanno capito che sono proprio guarito. E speriamo davvero che sia così. Nicola Filippone, il 6 di marzo. Sembra ieri. 6 marzo 1983. All'Olimpico la Roma capolista ospita la Juventus. È una gara equilibrata e spigolosa, fino a metà ripresa, quando Falcao, su cross perfetto di Bruno Conti, batte Zoff di testa. Il successo consentirebbe ai giallorossi di Riedholm di allargare in modo significativo il solco con le inseguitrici. Ma negli ultimi minuti sale in cattedra Michel Platini, prima trasformando una punizione con un colpo magistrale, e poi pennellando sulla testa di Brio la palla del successo, tra le proteste dei romanisti che reclamano un fuorigioco. Curiosamente Brio ricorderà l'incontro, oltre che per il gol, anche per il morso che riceverà da un cane poliziotto prima di un'intervista all'imbocco del tunnel degli spogliatoi. La Roma riprenderà la domenica successiva la marcia scudetto. Quello contro la Juventus sarà l'unico KO interno e uno dei rari passi falsi in una stagione da incorniciare. Pensate che oggi, 6 marzo, compie 110 anni il Real Madrid, fondato per l'appunto il 6 marzo del 1902, e come mi segnala Franco Piantalida, andando a scovare non so dove una curiosità sbalorditiva, non tutti sanno, mi scrive in un appunto, che il Real fu fondato da una coppia di fratelli catalani, niente meno. Juan Padros Rubio e Carles Padros, che si trasferirono a Madrid nel 1886 e che erano già, questi due fratelli, dirigenti di un vecchio club di Madrid che si scisse poi in due costole e riunite nel Real Madrid nel 1902, al punto che il primo match informale, che fu una partita banale tra soci, fu giocato tre giorni dopo la fondazione, cioè il 9 marzo, e le formazioni si divisero una in maglia azul e l'altra in maglia grana, e probabilmente a Barcellona stanno ancora ridendo adesso, no? Pensando a questo atto di fondazione del Real Madrid. Chissà, una storia del genere sarebbe piaciuta all'avvocato Prisco, certamente, a proposito della fondazione del Milan. Chissà se la conosceva. Giuseppe ha chiamato da Ferrara, buongiorno. Signor Garanzini, buongiorno. Dica. In base ai cori razzisti, la Lazio ha pagato, o deve pagare, una multa. 20 ma euro. Non c'è la munizione per la prossima, che c'è la squalifica del campo? No, no. Grazie, signor Garanzini. Grazie a lei. No, mi pare proprio che la cosa sia limitata alla sanzione di 20.000 euro. Questo messaggio che scrive Andrea Rapinarolo è divertente. Dice: Garanzini, lei mi stupisce sempre più. Complimenti per aver beccato l'ascoltatore col nome finto. Se si stufa di fare giornalista, potrebbe trovare spazio nei RIS di Parma. Adesso non esageriamo, però è vero che sono abbastanza fiero di aver cuccato questo. Magari c'era una voce, dato che il signor finto romano di Napoli veramente l'ha fatta un po' fuori dal vasino non molti giorni fa, e questa voce mi era evidentemente rimasta, pur con tutte le povere turbe dell'età, ma insomma mi era rimasta da qualche parte. Sì, era inevitabile beccarlo, perché stava ricominciando sciocchezzuole della stessa forza, più o meno. Giancarlo da Milano, buongiorno. Buongiorno, ragazzi, assicuro che il mio nome è vero. Sì, no, ma la credo, cioè, la voce non la riconosco, no, comunque, no, quindi è perfetto. Sono chiamato in altre circostanze. Volevo giusto fare un intervento sul razzismo, sono perfettamente d'accordo con lei. Sì. E da tifoso interista, grazie insomma agli sforzi della mia dirigenza, dei miei giocatori, quest'anno, anche l'anno scorso in verità, ma quest'anno in particolare, ho modo di vedere e di osservare le cose del calcio un po' in modo distaccato, no? E devo dire che effettivamente lo spettacolo è poco più che indecente, insomma, perché ascoltare questi cori dello sport è una cosa che proprio non si può sentire. Si dimentica anche spesso che insomma comunque sempre meno, ma i ragazzi, i bambini vanno allo stadio. Ci guardano, i bambini ci guardano. Poi magari oggi si sfogano quei cartelli i bambini, ma io non sono certo che siano i bambini, perché io non penso che quel povero Filippo di cui prima si parlava per la meglio un ascoltatore abbia mai scritto nemmeno il primo cartello. Io ho l'impressione che i bambini ci guardino e purtroppo ogni tanto siano anche costretti ad assecondare le ubbie dei genitori. Ubbie è un termine un po' arcaico, ma insomma, pazienza, oggi ho fatto quello del RIS e quindi posso anche come dire, allargarmi un pochino da quel punto di vista. Molti ascoltatori hanno scritto perché non hanno gradito ieri la mia opinione sulla corsetta finale di Re, l'opinione di un ascoltatore, per la verità, che si chiama Marco Traversi, che aveva scritto una mail in quel senso, che io ho condiviso però in pieno, e cioè che la corsetta finale direi a combinazione proprio sotto la curva della Lazio, che aveva appena finito di buare o di berciare in qualche suo componente, stiamo sempre attenti a quello che si dice, l'avevo trovata abbastanza patetica, insomma, e forse anche un po' male indirizzata, nel senso che si poteva anche correre magari da un'altra parte dello stadio, ci sarà pure stato qualche altro laziale in giro, oppure andare verso il campo e verso i giocatori. Mi è spiaciuto particolarmente perché stimo molto Reia, e allora a quel punto temo davvero che sia l'ambiente laziale forse che possa un po' contaminare. Sa perché? Perché mi è tornato in mente Papadopoulo. Parliamo di 5-6 anni fa, sta allenando la Lazio, a un certo punto di una partita appaiono cartelli con svastiche in curva, questo lo ricordo molto bene, con svastiche in curva e intorno c'erano le solite floride banane, no? Che campeggiano in curva. E allora un cronista alla fine gli chiese se per caso non avesse notato qualcosa di fastidioso durante la partita, e Papadopoulo come prima risposta disse: no, ma io tengo sempre gli occhi abbastanza bassi solo sul campo, in maniera da... Questo provò a incalzarlo dicendo: e quindi non ha notato nulla in curva? E lui disse: ma guardi, per me banane e svastiche sono la stessa cosa. questo era Papadopoulo. Non vorrei, ripeto, che fosse proprio l'ambiente un pochino, no? Che favorisce questo genere di, come dire, di confusione. Gianni da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno. Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie a lei di farmi parlare. Io volevo solo fare un appunto. È tanti anni che ascolto la vostra trasmissione. Sì, abbassi la radio, Gianni, per cortesia. Sì. È tanti anni che ascolto la vostra trasmissione, Domenica Sportiva, il lunedì su Radio Anch'io. Si fanno grandissime polemiche del giorno dopo. In realtà, come si può dire? Dovremmo fare il giorno prima? No, non lo so, non capisco. Scusi? No, dico, dovremmo farle il giorno prima? No, voglio fare un ragionamento diverso. Voi avete ragione a parlarne perché è giusto che sia così. Però ci ritroviamo dopo tante volte, tanti anni, parlare sempre delle solite cose, quindi cose razziste, violenze negli stadi. Probabilmente fra 10 anni ne parliamo ancora. Ma non pensate che forse leggi severe, ma severe davvero, per tenere fuori questi 4 deficienti dello stadio che rovinano tutto lo sport, bisognerebbe veramente metterle in pratica, ma certo che a costo di fare del male a qualcuno. Ma no, ma guardi, mi scusi Gianni, perché sennò lei sta prendendo una rincorsa che secondo me la porta a fare un tuffo di quelli non bellissimi, no? Che poi ci si spiaccica. Dia retta a me. Le leggi ci sono, anche senza bisogno di essere ancora più severi, eccetera. Basterebbe applicarle. Le leggevo prima questo articolo di Ansaldo. C'è scritto, cioè è in vigore da qualche tempo, il principio per cui una partita prima viene sospesa e poi eventualmente viene interrotta e poi viene data persa per burazzisti. Cioè, c'è, la legge c'è, basterebbe applicarla e non fare finta di niente non appena le cose passano di moda, come ultimamente era passato di moda il razzismo negli stadi. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Fabio Cantadoni in regia, Franco Piantanini in redazione e buon pomeriggio.